Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovato Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ci siamo lasciati domenica scorsa belli proattivi rispetto a nuovi obiettivi e ci ritroviamo invece oggi un po' in stand-by, diciamo così, in attesa di capire se riusciremo a dare seguito alla nostra passione per la corsa alla luce anche delle varie cancellazioni di gare che in via precauzionale ci sono state e forse ci saranno in giro per l'Italia per il coronavirus. Qui a Radio 24 per tutta la settimana abbiamo approfondito e analizzato il tema coronavirus in tutti i suoi aspetti. Noi oggi rimaniamo giustamente nel nostro ambito, che è quello del running, e ne parliamo con Daniele Menarini, con direttore del mensile Correre. Bentornato. Ben ritrovati. E con il nostro coach Fabio Vedana, ben ritrovato. Ciao a tutti, buongiorno. Allora Daniele, partiamo da casa tua. Oggi era previsto il grande ritorno della maratona di Bologna e nulla è stata cancellata. Atteso da anni, sì. Quantomeno è stato posticipato forse. Sì, in queste ore, in questo fine settimana stanno valutando se c'è la possibilità, sia per quanto riguarda i programmi della città, sia per quanto riguarda il calendario agonistico, di recuperarla magari nella seconda parte di stagione o un po' più avanti comunque. Quindi c'è sempre un punto interrogativo. L'abbiamo aspettata per 20 anni, poi insomma è andata male. Sì, più o meno sì. L'ultima edizione ufficialissima era il 1996, quindi 20 anni abbondanti. Diciamo che volevano fare come Tokyo per sentirsi un pochino un po' più importanti. Quanti iscritti c'erano alla Bologna? I loro comunicati parlavano di più di 3.000 persone, 3.007, però sommando la maratona e i 30 chilometri, che era questa proposta secondo me interessante, perché continua a essere la gara agonistica meno fatta in Italia, sì. Guardo il coach, e forse la più utile, perché è terribile dover fare i 30, il lunghissimo da soli. Sono perfettamente d'accordo, infatti non ce ne sono tanti in calendario, però invece è utilissimo per chi prepara la maratona come evento principale della preparazione. E quindi Fabio, la cancellazione di una gara molte volte è anche la cancellazione di un obiettivo. Come ci riprogrammiamo? Continuiamo a allenarci prima di cosa. Creiamo un altro obiettivo, che comunque è sicuramente un'azione bella, perché comunque la creazione dà sicuramente tanta energia e tanta motivazione. Quindi non dobbiamo farci attanagliare dalla depressione di dire o mi sono allenato 12 settimane adesso non farò la gara, ma invece dirò mi sono allenato sempre 12 settimane, mi sono preparato per la maratona di Bologna che purtroppo è stata annullata e mi riprogrammo per una maratona successiva. Ma a questo punto basta capire c'è la possibilità di farlo nel breve termine, quindi la settimana dopo. Però lì c'è tutto il problema legato alle iscrizioni, perché gli amatori hanno questo problema, cioè di avere gli elite non hanno tanto questo problema, si fanno invitare e riescono a riprogrammare. Un amatore c'è tutto questo problema proprio che è logistico, organizzativo. Quindi se c'è la possibilità di andare su una maratona immediata non cambia praticamente nulla dal punto di vista della preparazione. Se invece devo riprogrammarmi a più di 4 settimane, a quel punto devo mettere in atto delle strategie riguardo il recupero dell'allenamento, perché naturalmente quando preparo una maratona vado in tapering almeno gli ultimi 10 giorni e quindi rischio di non allenarmi per tanto tempo, no? E quindi devo fare una riprogrammazione che soprattutto riguarda dei richiami di intensità e dei richiami di allenamenti di lunga distanza. Naturalmente tutto è parametrato a quanto tempo, quante settimane andrò a riposizionare la gara obiettivo, quindi questo è un fatto abbastanza certosino e matematico per quello. Però l'aspetto più importante che voglio sottolineare è che, come tutti i momenti di crisi, deve essere vissuta almeno mentalmente come un'opportunità e non invece come ho buttato via 12 settimane, cosa mi sono allenato a fare, ecco ce l'hanno tutti contro di me, che è il tipico atteggiamento che invece scoraggia invece le prestazioni. Magari qualcuno prende tempo, dice, avrei avuto bisogno di un'altra settimana, di un'altra 2 settimane e finalmente... È sempre il tuo esempio, perché ricordo sempre che tu arrivi sempre agli eventi dicendo ma non sono abbastanza, non ho fatto abbastanza lunghi. Bravo. Quindi qui è l'occasione per fare i lunghi. A me ricorda quando ti rimandavano l'esame all'università. È la stessa cosa. Perché è un fatto mentale, non è fisico, è un fatto mentale. Vero. Per cui l'errore più grosso è quello, appunto, ricordiamo che se abbiamo la maratona obiettivo abbiamo fatto un periodo di diminuzione. E quindi se oggi non facciamo la maratona perché è stata annullata, a questo punto però oggi possiamo fare comunque un lungo. Perché sono comunque almeno 2 settimane che non abbiamo uno stimolo di quel tipo. E quindi un 25-30 km a bassa intensità è immediatamente una risposta che ci dà, uno, il piacere di farlo e di non stare sul divano a deprimerci, e due, ci è anche utile per la riprogrammazione della prossima gara obiettivo. Daniele, computo delle gare cancellate e rinviate, anche leggendo la vostra analisi sul sito correre.it, solo per questo fine settimana ci parla di circa 40 diciamo manifestazioni annullate, sì, o spostate in qualche modo. Questo rende anche bene l'idea del fenomeno running, si corre tanto nel fine settimana. Sì, certe volte se vado a vedere le varie agenda runner che tu gentilmente citavi, in certi momenti arriviamo ad avere 200 possibilità in giro per l'Italia, compreso tutto, dalla grande gara alla sagra di paese. Ho letto un milione di runner previsti in un weekend addirittura. Cioè, sì, lì anche a me sembrano tanti. Anche a me sembrano tanti. Ma è colpa degli americani, perché hanno instillato nei nostri ricercatori l'idea che per loro è runner uno che corre una volta a settimana. Cioè, come se io che guardo il Festival di Sanremo fossi un esperto di chitarra o di pianoforte jazz, più o meno così. Ma io vedo una cosa positiva però in questo, perché alla fine in questo periodo vedo molte più persone che corrono all'aria aperta. È vero. Perché sono tutte chiuse le palestre, quindi è bellissimo, c'è meno inquinamento. E appunto oggi quando sono andata a correre era fantastico perché si stava benissimo. No, non so se è un fatto meteorologico, ma sicuramente l'aria su Milano è più respirabile. Noi che viviamo Milano tutti i giorni, respiriamo Milano. È molto respirabile. Quindi non so se. Guardiamola questa cosa positiva. Sì, sì, no, infatti, no, tutti gli aspetti positivi. Io aggiungo un elemento nostalgia. In alcuni impianti di atletica del Padovano o delle zone bloccate, quindi Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, sono aperte le piste ma sono chiusi gli spogliatoi. Questa è la disposizione locale. A me ricorda terribilmente quando si giocava a pallone, poi col cappotto si andava a casa a fare la doccia. A proposito di questo, ieri sera quando organizzo il gruppo di allenamento con gli Age Group al campo 25 aprile, che è il luogo di ritrovo a Milano, perché è l'unica pista ormai rimasta a Milano, ci siamo ritrovati sempre come negli anni 80, quindi tutti che si cambiavano in macchina e perché gli spogliatoi, come giustamente detto, sono chiusi, però la montagnetta è aperta e anche il campo 25 aprile è aperto, e quindi ci siamo ritrovati come dei carbonari. Ci si guardava per vedere se uno cominciava a spogliarsi dentro la macchina, qualcuno arrivava già spogliato da casa, come i tempi. Quindi è stato veramente un ritorno al passato, e questo secondo me è degno di, è un po' romantico, però è vero, è romantico. Daniele, in mezzo a questo elenco di gare che avete cercato, insomma, annullate, cioè, ho visto la mezza di Lecco, il Corilecce, per cui anche alcune mezze maratona che coinvolgono parecchie persone. Sì, ce ne sono state tante di quelle medie, e poi c'è stato anche l'annullamento dei master, lui parlava degli age group, c'era l'appuntamento di Ancona che è un appuntamento di pista, però molti master, anche lombardi, soprattutto lombardi sono tra i più accaniti frequentatori, quello è stato proprio annullato, il campionato italiano master indoor che per molti è l'epilogo avrebbe limitato alcuni la possibilità di partecipare. Sì, secondo me quella è stata una considerazione giusta, un po' come il campionato di marcia a Bergamo dei 20 dei 50, perché in effetti, per quanto possono essere poche le persone provenienti dalle zone blindate, però è una questione di correttezza, devi dare a tutti la stessa possibilità di partecipare. Ma Fabio, in vista di un nuovo obiettivo, no? Fra magari 2-3 settimane, possiamo mettere anche una mezza maratona nel caso? Allora, io sinceramente, se sto preparando la maratona e fare 3 settimane prima così senza una programmazione specifica, quindi senza una collocazione specifica dell'evento, non mi sentirei di consigliare di fare una mezza maratona come una gara, perché rischio di farla a un ritmo troppo alto e quindi di fare uno stimolo che non è idoneo per l'obiettivo principale. Quello invece di correre una distanza intorno ai 21-25 km, quello sicuramente lo si può inserire, però ha un pacing più vicino alla maratona che alla mezza maratona, perché quello è il rischio, cioè se faccio una competizione il rischio di andare ad un pacing troppo alto, ed è l'errore che invece non devo fare, anche perché se la posiziono solo a 3 settimane prima della gara è un po' troppo vicino. Sì, Fabio, volevo chiederti, quello che abbiamo detto prima sulla maratona vale anche per chi ha preparato una mezza maratona e si trova cancellata la propria gara di riferimento? Certo, perché comunque vale lo stesso, naturalmente è tutto un po' rimpicciolito, perché nella mezza maratona il periodo di tapering è più basso, è più corto, e quindi il periodo in cui non mi alleno con un volume significativo è più corto, e quindi ho la possibilità comunque di riparare un po' meglio e di riposizionare senza troppi patemi d'animo, come invece può accadere se devo riprogrammare la maratona, dove devo stare molto attento appunto ad arrivare alla maratona, come diciamo sempre, con un buon livello di fitness, ma anche con le energie, perché è quello che fa la differenza quando faccio una prestazione in una distanza così lunga, è con quante energie mentali e fisiche ci arrivo. Posso fare una domanda al coach anch'io? Vai. No, ne approfitto perché questo che è l'argomento, giustamente come proponevano Silvia e Ivana, di questo fine settimana, che me ne faccio della mia condizione di forma faticosamente raggiunta. Mi sembra di aver capito che è un problema più facile per gli amatori che non per i top runner, nel senso che la punta di forma dei top runner dura, mi sembra, se, correggimi, qualche settimana, mentre un amatore in teoria ha più tempo. Sì, sicuramente nell'amatore c'è il rischio di sbagliare è minore, mentre nel top runner, soprattutto per un discorso legato, come detto prima, al fatto che si cerca di massimizzare nell'arco di una quindicina di giorni il top della forma, soprattutto per un evento come la maratona, che non è che ne fai 20 durante una stagione, ne fai 2, 3, certo, se sei ad alto livello. Quindi il problema è quello lì. Quindi se posso spostare una settimana non cambia nulla, se posso spostare anche fino a 15 giorni siamo al limite, ma se devo riprogrammare a un mese devo veramente riprogrammare parecchio nei richiami, perché devo ricapire, appunto, uno, devo fare un bilancio, perché anche, come abbiamo detto, non mi sono allenato con intensità nella fase precedente, quindi devo fare un bilancio di com'è la situazione contingente del momento e poi riposizionare gli allenamenti per ritrovare ancora un picco. Ed è, ti assicuro, complicato. Un bel problema. Sì, soprattutto perché l'atleta è pronto per correre, poi gli dicono no, non corri. E quella è l'aspetto peggiore da riprogrammare per il top rider. Per l'amatore, diciamo, è un amatore, quindi lo fa per piacere, quindi è un po' diverso. Più gestibile. Sì, è solamente lì c'è da affidarsi al gruppo di amici che non lo deve commiserare, come abbiamo detto all'inizio. Ecco, che quello come l'aspetto mentale dei top, mi sa che è il problema più grande. Lì naturalmente c'è il fatto goliardico, che comunque, visto che il mio amico, sappiamo che è un po' debuluccio sull'aspetto motivazionale, allora lì cominciamo a dirgli devi riniziare da 12 settimane. E Daniele, allora, passato questo weekend l'attenzione si sposterà sicuramente su manifestazioni che hanno un peso rilevante sul calendario delle gare, insomma, nazionali. Mi vengono in mente la Roma Ostia, appunto, la mezza maratona più partecipata d'Italia, in programma domenica prossima 8 marzo, poi la Stramilano il 22 marzo, il giorno prima ci sarà anche la Milano Sanremo di ciclismo, tra l'altro grande classica, anche lì c'è un punto di domanda, poi c'è la maratona di Roma il 29 marzo e la maratona di Milano il prossimo 5 aprile. Siamo comunque in attesa di ricevere notizie più precise. Sì, la spada di Damocle balla sulla Roma Ostia, che è una manifestazione mostruosamente grande, in assoluto la manifestazione agonistica col maggior numero di italiani, perché chiaramente Maratona di Roma di solito ne fa di più, però coinvolge, grazie anche agli stranieri che sono tanti, lì è proprio è un rito, poi l'avrete visto anche voi, è una cosa molto particolare. Credo che già domani, in base alle decisioni ministeriali, tipo riaprire Milano per molte cose, le scuole, diano il via definitivo all'organizzazione della Roma Ostia. Ma in quel caso la riprogrammano oppure si annulla completamente? È difficilissimo, perché anche lì stiamo parlando di una gara che è l'unica gold label italiana, quindi vai a chiedere delle cose a un calendario internazionale, diventa molto più complicato. Sono ore difficili anche per loro, in teoria. Perché infatti posso aggiungere io, il calendario internazionale è molto stretto, cioè se salti non puoi riprogrammare, perché trovare un altro slot è veramente complesso. Sì, veramente. E quindi chi si è iscritto perde l'iscrizione o l'anno prossimo? Di solito l'abitudine degli organizzatori è quella di proporre il pettorale per l'anno dopo. Veniamo al discorso delle gare internazionali, che anche nel caso di Tokyo le agenzie nostre lo stanno facendo, di salvare il pettorale. E stanotte si è corsa la maratona di Tokyo e possiamo dire che si trova nella stessa situazione. È stata cancellata, diciamo, la gara dedicata agli amatori, è rimasta solo la gara elite. Strano, tra l'altro, vedere una gara di così altissimo livello, una major, una six major, quindi una delle gare più importanti dal punto di vista della maratona, dal punto di vista mondiale, corsa solo dagli elite. Sì, in particolare Tokyo ha una sorta di collo di bottiglia, perché è entrata per ultima nelle major, e quindi per i tanti, molti più di quelli che personalmente credevo, anche italiani, che vogliono fare tutte e sei per avere la mega medaglia con tutte, c'è un'attesa terribile rispetto ai pochi pettorali che ci sono, nonostante i costi di Tokyo, che sono costi alti, si è parlato di 4.000 euro medi per una trasferta come questa. Anche lì va detto brevemente, onore delle agenzie, il fatto che hanno garantito tutto quello che potevano rimborsare, cioè il viaggio aereo era perso, però in questo caso l'albergo disdetto è stato coperto dalle agenzie, il pettorale anche, perché in un primo tempo, come già era accaduto a New York, si parlava prima con Fabio, c'è stata la risposta netta degli organizzatori, no refund, quella è la loro... La chiamano, cioè, New York, la chiamano 2012, policy, New York 2012, okay. Con la differenza che a New York erano già tutti là, sì, ed erano stati chiamati là dall'organizzazione che fino a giovedì diceva tranquilli, qui è tutto aperto, si va. Ricordiamo che ai 400 milioni di dollari che la maratona di New York porta, insomma, alla città, difficilmente qualcuno ci rinuncia, insomma. Infatti, e anche in questo caso in un primo tempo gli organizzatori hanno detto è un problema vostro. Poi pare che soprattutto con la sindaca la Biagi, che ha detto mi auguro che facciano qualcosa per tutte queste persone che non sono venute, mi risulta, lo dico ufficiosamente, che una piccola percentuale, credo un 30 o un 40, la maratona la stia per rimborsare alle agenzie. Però a monte le agenzie si sono fatte carico, come all'epoca, di tutto. Ho scoperto, parlando con loro, e chiudo, che anche in quel 2012 di New York, in realtà poi la Wittenberg, all'epoca il capo della maratona, qualche mese dopo è scesa più miti consigli e qualcosa ha rimborsato, però veramente poco. Fabio, sono state cancellate anche un po' di gare di duathlon e forse anche qualcosa legato al triathlon, no? Succederà. Sì, è notizia proprio delle settimane che è stato annullato il campionato italiano di duathlon classico, che era posizionato a fine marzo a Pesaro, e quindi in questo clima di incertezza gli organizzatori della federazione l'hanno annullato e lo riposizioneranno più avanti, e questo è un altro esempio. Però mentre rispetto alla maratona di oggi, che è stata annullata ma era imminente la preparazione, già un evento come quello del 28 marzo permette a chi deve preparare l'evento di riposizionarsi e anche di ricalibrare la parte di affinamento della preparazione, quindi sicuramente questo è anche stato... perché non fai lo scarico, quindi esatto, ti permette di riposizionarti con un'efficienza e un'efficacia più alta. E sono state anche riposizionate altre gare nel panorama internazionale del triathlon, infatti la gara di selezione valida per le Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda la nuova disciplina del triathlon, che è il mix relay, cioè la staffetta mista, che doveva essere a Chengdu in Cina, è stato spostato in Europa a Valencia, in abbinamento con la Coppa del Mondo che ci sarà. E quindi anche le federazioni internazionali stanno cercando di modificare, soprattutto anticipando, per evitare negli atleti elite, che è il vero problema, che questa modifica scombini parecchi piani di organizzazione di un anno così complicato come l'anno olimpico, perché già ci sono le gare di qualifica, poi l'appuntamento top di 4 anni, quindi veramente per noi allenatori e per gli atleti è un motivo di stress notevole, e quindi saperlo un po' prima, nella già situazione comunque di emergenza, ti facilita un pochino le scelte che devi compiere, che sono comunque scelte difficili, perché le vai a fare spesso con l'ansia, e la cosa peggiore quando fai una scelta importante è avere l'ansia e avere fretta, e quindi il nostro lavoro è complicato. Parlavi delle Olimpiadi di Tokyo, il primo ministro Shinzo Abe nei giorni scorsi ha dichiarato: prepariamoci allo scenario peggiore, la cancellazione dei giochi addirittura. Poi l'OMS dice l'allarme sul coronavirus è da ridimensionare, mentre il CIO, il Comitato Olimpico, dice che si prenderanno 3 mesi per decidere le sorti dei giochi olimpici. È difficile pensare un anno bisestile senza le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono fermate solo con le guerre, praticamente. Sì, soltanto con le guerre fino a questo momento. È anche difficile pensare che un popolo come i giapponesi, che hanno gestito un terremoto con centrali nucleari spaccate, abbia paura di una cosa come questa. Però c'è anche da dire che dall'altra parte del loro mare c'è la striscia sottile della Corea del Sud, poi c'è la Cina, e quindi è facile che loro, se già noi si siamo suggestionati così tanto, immaginati loro. Però il problema è soprattutto più che con gli atleti, perché io credo, poi Fabio me lo può confermare o meno, ma ogni singolo comitato olimpico è in grado di fare la profilassi ai propri atleti con grande facilità. Il problema sono i turisti che già hanno tutti i pacchetti viaggio, cioè noi adesso guardiamo ai quasi 40.000 di Tokyo, ma sai quanti sono già lì che sanno di dover andare, beati loro, a vedersi le Olimpiadi? Il problema è loro, cioè questa gente che arriva da ogni parte del mondo, e come ti arriva, ecco, questo credo Olimpiadi sia a porte chiuse, impensabile. Abbiamo già avuto il mondiale di atletica con questo meraviglioso costume popolare da sedia vuota che abbiamo visto delle cose un po' tristi, no? È un po' impensabile. Grazie Daniele Menarini, a presto. Grazie a voi. E grazie al coach Fabio Vedana. Grazie a voi e buon allenamento, buona settimana a tutti. E grazie a Andrea Roccabella e regia. Noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi ovviamente quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.